Thank you. mio, che lingua parlo sì, che potea disperar ogni amante. Andromeda infedel, terzo d'inganni, esche mi disse che da riso accendo un fuoco in lei maggior, ogni altro fuoco. amati, non fermate i vostri amori tra gli acerbi miei dolori, perché col pianto mio mi avvelenate, perché col pianto mio mi avvelenate. No! Mi piace, mi ride, le dalle rocche. ci sarà ancora afflitto? Speri giammai per te, propizia stella. Che bene o m'avvecchio, che trasprimi di morte stai sospeso. Perché forse non sai, povero cuore, che chi è nato al pinar vive al dolore. Thank you. già sorte, tanto m'affligge tanto, che se ben tu non vedi quest'occhio a lacrimar, ne scopri il pianto. Questa del mio dolor, pietà che dici, tanto per me crudele, non saresti. Già nemico d'amor, amar non voglio, Andromeda da lo sai. Ama che giusto il tuo Perseo fedele, che ben lo merta, io parto. Almeno non partire sì presto, udi, pria che tu quando caro mi sei, quanto mi piaci. Se da me speri amore, la speranza è un delirio. Che rondo in questo viso, l'amor mio tu disprezzi. Con tal vigore, nella mia libertà servo il piacere. Piacere che troppo è fiero a quest'almo d'Aliso, chi ti vive? Ma piacere che mi giova. A dirmi sento di sdegno e di furore. Già te lo dissi ancora, non voglio amore. Ah, del mezzo c'è la meta, vedrò incompiuto le comuni brame. Giorno più fortunato, sperar non dice. A noi se ne venga Imeneo, il seno esposi, sparga fecondo e lieto, ciglie rose, né mai destino audace, avveleni il piacer, turbi la pace. Dalle superne stelle dietro discendi, e tu notte distendi, distendi il bel che ascondi. Costante adorator, sì.

se temper mai cambiamo il tempio dove sull'are preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi d'onor ai sommi dei cui del nostro gioir devesi il merto. Andiamo Melisa da se lieti auspici sperarmi giova per favor del nubi il cielo ogni or sereno la greggia lieta il bradicel più a me. Thank you.

il godimento, né via tormento, né via tormento vi colga dal godere. Thank you.

nostro incomi più bello, ti lo divento, ne via tormento, ne via tormento, vi colla dal modello. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。